Avventurieri, ragionate così. Se la corda raggiunge l'acqua, il secchio dovrebbe riempirsi, quindi acqua raccolta dovrebbe essere vero. Ma nel codice attuale accade l'opposto. Quali elementi dovete quindi invertire affinché l'incantesimo funzioni nel modo corretto?